spietato, e su quel foglio scriverò le vendette. Dove ti porta cieco furore? Dove me il chiedi, direi proverò d'una beltà schernita. Scampo, non veggio più per la ferita. Segno tu il foglio in rino. Rino, oh, ehi, mi sprizzo. Al primo assalto vuoi che ti ceda ancor? Muovine tenta, espormi al disonor d'altro rifiuto. Fa che a te uzzon mi si conceda il passo, e disporrò al tuo amor. Tanto prometti, sì. Tu sospendi intanto la morte sua. Custodi nella prigione, Dio si accosta in ingresso. Ma se mi inganni, ogni pietà se esigui, siano ancor coi suoi giorni miei recesi. Risorgete speranze. Ai, che